Andiamo, andiamo. Cazzo. Bobbo. Sicuro l'antenna, perché a casa l'ho attaccato ed è un bombo. sia tanti canali. E allora sarà sicuramente l'antenna. L'antenna. E forse domani viene Franco, dobbiamo fare un lavoro. Adesso vediamo. Per chiamarlo domani mattina, perché io giro in campagna, era dagli anni Ebba. Prima la cerca a 2 metri Ebba. Chi è? Gianluca. E sei tutto papperato, Marco, ciao, non ti avevo manco riconosciuto. Sei quasi tutto strappato, boh, abbassa appena, vediamo. Aspetta, allora un po' più piano, forse è troppo amplificato. Sì, adesso non ti capisco, lo fai Allora abbasso, aspetta, allora abbasso. Regoliamolo, regola. Ciao Marco, anche da me il primo passaggio è tutto adesso sei a posto, va. Il tuo prossimo non mi sente. E cosa devi fare, Cla? Devo roba elettrica, roba di Franco. Devo fare collegamento alla seconda lavatrice. Ah, ho capito. Aggiungavi, devi passare, devi farlo, esternamente? No, mi deve... non so come spiegartelo, boh. Collegamento della roba asciuga, boh, non mi ho compreso nulla, comunque roba elettrica, roba gioia, no, non ne comprendo nulla io. Passa, non mi sentivi, Marco? Va bene, Clara, non c'è problema, avanti Marco, prova. Ehi Lu, come non ti sentivo, cavolo, quando Scala arrivi, cosa non ti sento? Che se non sei nel tuo QPH arrivi fortissimo. Quando lo verrà il parametro della modulazione, come va così? Bene, ma dove sei, in macchina o a casa? A casa con apparato con 3,5 circa. Ma il segnale scende troppo, c'è la fondoscala, mi scendi, sali, come se si muovi lento. Infatti anch'io non ho fatto, facciamo vedere in macchina, Marco, c'è qualcosa che non va, cioè quei servizi da 9,20 a 9. No, sono alimentato a batteria interna, e quella radio che ti ho fatto vedere stamattina, e c'è una batteria già bassa, vero, cioè, l'indicatore che sta lampeggiando sul low, devo cominciare a ricaricarla, ma ero curioso di sentire la modulazione com'è. Bella comunque, bella, a me piace. Una modulazione di K, una modulazione di MC60. Addirittura, non hai visto quale? Quello piccolo, il motricato, non è nero. Bella modulazione, anche troppo forte direi. Però la tensione, se è bassa, tendi leggermente a andare via, capito? Di segnale. Aspetta che metto che attacco l'alimentazione a terra, un attimino, riprendilo. Va in negativo, arriva sul più, Marco, e scende anche a 7 di moto. KK. Vabbè, dai, comunque. Interessante fare le cose, là. A me è successa una cosa invece, che ho sistemato un computer, cazzo, se me lo potevo dire, non c'è il vasso così. Cazzo, è giunto, quella faccia per gli assilo, ma vabbè. Io non capisco con quale faccia la gente si metta a fare lavori senza soldi. Stavamo parlando proprio l'altro giorno con Giulio, cioè allucinante. Ma se soldi non ne ho, io non posso andare a comprare una macchina, vado quando c'ho i quattrini. È allucinante, cioè non riesco a capire, cazzo. Non riesci a comprendere, cioè io quando ordino il materiale, prima che arrivi il materiale a casa, è già pagato. Non è che mi possono regalare materiale, come dire, già faccio io. Non funziona così. Vabbè, non ho parole. Fatto impresa a Bulumi. E ieri, l'hai visto, ci hanno smontato 2 computer uguali, smontati, no, bucato di viti, smontati, a pezzi. E da 2 ho fatto 1, e così ho fatto, è consegnato. Senta di là, ore di lavoro, e senza soldi. Non riesco a capire, sta gente, cazzo. Vedi che ti manda a piccone. Vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo la prossima volta, non ci sarà la prossima volta. Tu pensa che uno ha fatto gratis anche, gratis, devo dire gratis. Cioè fa Windows XP in quelli piccolini e gli ho messo Windows 7, gratis. Quelli te li manda quel poco male di Natalino, me, capito? Cioè andate a Lucca, non lo pagate. Io non lo uso, quello è un drogato, eh. Non parli, eh! Sandri! Erive! Sandrino! Non è che rimanga questi così. Abbraccia leggermente, Marco, ancora? Sì, va meglio, o devo ancora abbassare? No, così va bene, prova a parlare normale come parli sempre tu. Faccio tu, prova, oh yeah, the size of Sardini Island, oh yeah. Sì, però questo segnale scende un po', come mai, Marco? È un portatile, Lu, è una radio portatile, non è una radio da base fissa. Ah, comunque c'è veramente, veramente bene. Vediamo un po' se c'è quel cuocomo di Natalino che mi manda le persone, che cuocomo come lui. Ma è drogato. Come mai sei così basso, Natalino? E sono un 360. Vabbè, quello già sappiamo che è basso, è più basso di me. Però non sono cuocomane come te. Tu dove sei? Sì, anch'io lo so. È vero. Avanti, cazzo. Cuocomane per il bella pure, sì, così impari. Sì, Marco, va benissimo. Va bene, va bene. Pensavo il segnale fosse più alto, lo sai. Perché noi siamo molto vicini, no? Noi siamo molto distanti, eh. Pensavo fosse, vabbè, 4 watt, magari ci attacchi l'altra. Veramente, aspetta che guardo, questo, allora, no, questo è power, ok, allora, vediamo un po', no, questo così, scende per il... Forse questa è la posizione a massima potenza, così che segnale offra? Sei quasi 9 più 20, quasi 9 più 20, quindi non so quanti watt sia quella radio, però... Pensavo arrivarci almeno più 30 come Roberto, visto che a vista ottica non è che siamo molto distanti. E io quando arrivo? Io credo, in AM forse neanche. Allora, guarda un po', così è, diciamo, dovrebbe essere la più alta, così è quella un po' meno, ancora un po' meno, così è quella meno e così è nuovamente quella alta. Come sono i segnali nelle varie passaggi? Allora, quasi 9 più 20, poi scende a 9 più 10 e 9 più 5 è scarso. E io come arrivo? No. Adesso la 30 si è sollevato, però c'hai un tipo alternata, prova. Alternata ciò. È un po' sì, vero Cla? No, non è vento, ma che si sente, da quando si sciogliono i capelli. Ah, sì, si sciogliono i capelli da lì. Che è, spegni la spirapo, il phone. Aspetta un attimo, hola. Troppo facile. Io sento un po' strano, ma non vuole di vento, no, è niente di grave. Marco, invece questa modulazione com'è? Questo è il 50, eh? È tipica modulazione la solita tua, perciò faccio un bel lavoro, Fabrizio. Sì, molto bene. Ho anche provato un FM con l'altro KVU. E ti dico che va veramente bene, ottimo, va bene, così almeno ce li ho tutti e tre attivi e non ce ne avrei da più. E c'avevo un MB più 5 che aveva fatto lui, sull'altro K, capito, ma la modulazione era schifosa, poi c'è un Adonis schifosa lo stesso, almeno questi sono di mia fiducia. Sì, è tutto papperato, non si capisce niente, sembra in fuori frequenza. Bisogna trovare qualche parametro più preciso. Ah no, ho cambiato di fronte, è un'altra cosa, l'altro ma è roba professionale, cioè non mi puoi dire che cos'è roba professionale. Ora la radio l'hai vista, adesso sono ritornato a quello di prima. È un preamplificatore per usare le cuffie di microfono quando faccio attività con gli apparati radioamatoriali, capito? Cuffie di microfono, poi circuito di preamplificazione per le cuffie di microfono, il microfono a condensatore o microfono dinamico. Adesso sto impiegando quello a condensatore. Ho capito. Non hai capito tu, no? Così carico l'altro, adesso come l'altro è regolato, va bene in manda laterale, e mentre questo va bene, secondo me va bene in aria in manda laterale, ossia, prova a passare in manda laterale, qua vediamo cosa succede. Aspetta che passi, no, mi pronto che sono roba professionale, aspetta, USB. Sì, USB, USB. Posizione, solo a Marco lo sentivo meglio di Natalino, questo è scontato, a te è malissimo, riuscivo a centrare, tieni tutto a pini. Sì, anche io mi devo aspettare tutto per sentirti corretto. Questa è quella, ci ha mai capito, nell'altra che avevo preso, se passo con la mia già mi senti bene. E quella non c'è manco filtri, non c'è niente, questa, capito? La uso così, giusto per fare due chiacchiere in AM e basta. Devo collegare l'altra, devo commutare l'altra per farmi sentire bene. La pagherò, smetterò. Adesso visto che stiamo giocando con i microfoni, vediamo con l'altro come fa la modulazione, aspetta. Registrato un attimo. E chi è? Non lo sento nessuno, chi è? Avanti il break. Io ti ricevo bene. Capito, io ti ricevo bene, è che stavano parlando poco fa, capito? Ah, non arrivi in su. Sto qui occhio. K-Bun QRX, Nico. Madre. Nicola Lupo Grigio è. Ma per cosa pur con l'antenna? Stiamo pretendere di farci sentire questo cristiano, io non capisco, mi dispiace. Ancora a metterci l'antenna, ancora a metterci l'antenna. Certo, ci fa vedere sotto a casa tua, io intendo ce l'ho due. Ma qua manco il QRM è solleva, no, io già lo sentivo. E con questo come mi ricevete? Questa è un'altra Cuba. Questa è un'altra Cuba. No, scherziamo qua, quando Scorpio si incazza bisogna giocare pesate, mi sono messo gli scarponi. Come fa questo qui? La modulazione com'è? Vabbè, la modulazione piaceva più l'altra, però il segnale questo è sì, in mezzo, tra il 3 e lo 0, nel mio smitter. Ah, non si è rotto? Poco ci manca, 9.30 qua c'è Marco, quindi già avevo ragione, 9 più 30 con questo. Vabbè, questo c'ha più va, però è quell'altro, è piccolino, è giocattolino portatile, QRP per fare le attivazioni, tutto in base a potenza. Oh, stamattina poi ho provato a chiamare, c'era un casino, non fatto entrare, manco in 20 metri, con l'antennina, con quella piccolina, non ce la faceva arrivare, vabbè, comunque. Va bene, questo è invece quello che uso normalmente qua. Ma non avevo dubbi, c'è il 9 più 30 abbondante, siamo vicini, linea aria, siamo vicini, poi arrivi anche leggermente più forte di Roberto, con l'altra eri più basso, 9,20, ma avevo già intuito, perché 9,20 con 4 watt, se aumenti la potenza sei 9,35. Va bene, mio segnale lì com'è da te, buono? A voglia, forte e chiaro, ottima modulazione, ha fatto un bel lavoro, va benissimo, non bene, benissimo, questa è la Spitfire, come si chiama, 827 oppure non so se c'è da aggiungere qualche altro numero, quella la Blizzard, Sirio Blizzard. Marco, come va come antenna? Te lo volevo chiedere a tempo, com'è? Ma guarda, in quel periodo quando dovevo cambiare perché avevo tirato giù la Mantova, che ormai non c'era più niente da fare, avevamo provato anche a tenerla in stato vegetativo, ma niente da fare, poi mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda se n'è andata, e la messa domani mattina alle 11 e niente, fatta la messa, tirata via, e allora ho dovuto frugare un po' che cosa c'era, che cosa offriva al mercato in giro, e di Mantova di vari tipi non ne ho trovato al volo così come serviva, ma guardando un po' siti, cose varie, WhatsApp, internet, questa qui mi è sembrata quella un po' più recente, e devo dire che comunque quando è arrivata poi ho cominciato a montare, ma avevo già visto diversi video, è fatta bene, solida, poi una 5 ottavi e niente, vedo che non posso dire niente perché non ho tutte e due le antenne a poter confrontare, però mi sembra che zunfioni, capito? E soprattutto mi sembra fatta molto bene, è veramente solida, ecco, non c'ha quei problemi che c'aveva il connettore della Mantova, l'attacco di cortocircuito della bobina è fatto veramente bene, cioè meccanicamente l'ho presa perché mi è piaciuta e i tubi, l'alluminio sembra sempre una lega di quelle decenti, vediamo un po' quanto dura, ho notato che non ha variazioni quando c'è pioggia e pertanto l'antenna lavora bene, nel senso non si carica d'acqua e non subisce variazioni, questo è già una buona cosa, tutto lì. Quello lì qual è? Si quanto non ha più baracchini né niente, se riesco a portargliela via con pochi soldi con l'antenna vado, me la smonto, devo sentirlo un po', se me la lavo l'antenna me la smonto tutto, me la pulisco bene, così non faccio altro che, se riesco, butto giù quella là, quello lì adesso si pulisce bene, si smonta e me la conservo e mi metto la sua. Adesso vediamo un po' se ci riesco a farmela dare, non più di 50 euro, tanto sicuramente me la dà. Ma quale antenna? Ah, Barbiere, Alessandro Barbiere, c'è la mazza qua. Anche non va più nuda. Non va più nuda, visto, ormai, cosa va? Io glielo propongo, se me la dà 50 euro, me la smonto. Quella è una nuova, è un po' strana. sembra forte, lucida. Poi mi dai tu una dritta come lucidarla. Ma se non ero ci vuole la lana d'acciaio, confermi per lucidarla. La lana d'acciaio, quella fine, quella vecchia che vendevano un tempo. Non prendeva presto niente perché le toglie tutto l'alluminio. La lana d'acciaio leggera, capito? E poi era una passata con lo straccio e lo svitolo. Esce lucida. Poi ce n'era un'altra ancora, sempre quella di Giuseppe Tornado, quella che quando abitava a Sacro Cuore. So che il tipo mi ha detto che è un po' strano, infatti io ci volevo andare a vedere un po' se me la faceva smontare, ma te la prendi, mi ha detto, però non ci voglio andare perché magari è un tipo un po' particolare. Io vabbè, bisogna fare di più particolare, ma guarda un'antenna, no. Ma perché la tua cosa c'ha, non va bene, c'è una nuova. Sì, la mia è nuova, ma il discorso è questo, la mia vuole buttata giù, poi nel tempo, cioè tutto il tempo che ci vuole, volevo fare le staffe nuove, me lo volevo far costruire da Roberto, compro il materiale ovviamente, così lui mi dirà più o meno come fare, poi lui lo sa, dai. E volevo cambiare le staffe e metterle come Dio comanda, dritte, tanto devo risultare dritte, a cambiare il palo, e mentre che ce l'ho male mi pulivo quella di Semalavenda Alessandro, quindi è già pronta a piazzare, l'altra quando ho più tempo magari me la smonto e me la controllo bene. Non c'ha nulla quella, però con le smontate è pulita. Ma ho capito. Vabbè. Lascio il cambio radio, la faccio con la mitica. Questa l'abbiamo già, l'abbiamo provata, lascio il comodo con l'altra. Ciappa, avanti, Tatalino. Oia! Che rabbia! Ancora ce l'ho quel coso, ho abbassato il microfono. Già sto scendo basso. Aspetta un attimo, che alzo un po' a vedere. Guarda un po' a vedere se ce l'ho ancora quella cosa dell'avvento. Un po' si sente, dai, un po' si sente. E vabbè, poi Natalino. Quando sarà mai ti metti con la Game Master, vedrai che poi andrai alla grande. Avanti Marco. Sì, a Marco deve ce l'hanno telefonato. Gappa, è così. No, la manta qua mia non c'ha nulla, è che quando piove mi salgono un po' le stazionarie, ma sicuramente è dovuto da, non lo so, che il PL a bagnomaria non è coperto, cioè non è né vulcanizzato né niente. Boh, vediamo, là. Però per quest'anno niente, anno nuovo sicuro ci salgo, dai, me la butto giù, piano piano. E poi mi sa che mi cambio anche il cavo, lo metto quello sottile, tanto io non ho grosse pretese, non mi interessa attaccare niente. Metto il cavo sottile e se la abbiglia come te possa amare. La mia si riempie d'acqua l'antenna invece, quando piove. Sai cosa? La fortuna. La iella mia che sono in basso lì. Sono in basso, sono circondato da palazzi e mi faccio sentire comunque, però è troppo basso, troppo basso. Magari abitare quel palazzo che ho di fronte, lì, da lì l'avrei picchiato forte. E te credo. Magari abitano anche all'ultimo piano, cavo, poco cavo, crocro. Io te l'appoggio. Questa è la lanterna di Pomponio, è tutta barritossa, quando ne scende te la piglia il culo. Me la compro nuova. Che antenna è Pompo? La mantovana a tubo. Quando l'ho vista, perché si vede dal dentista dove vado io, là. Quando è che sono andata al dentista? Giovedì. Sì, devo ringraziare che ancora è integra l'antenna, nel senso che sia è storta perché è storta, me ne sono accorto. Però è ancora, devo ringraziare i tiranti, se non l'avete trovata in terra, quel vento che aveva fatto quella volta lì. Infatti la direttiva è girata da una parte opposta. Adesso sto aspettando che faccia un po' di bel tempo, stacco la direttiva e giro bene l'antenna, li metto due tastelli dietro e così la metto dritta, la metto. E anche la mia già è un po' storta. Avanti Claudio. Claudio non c'è, sparito. Avanti Natalius, Estradius. Antone, ma guarda se senti alternata. No, la verità no. Aspetta un attimo, sta fischiando. Fruscelli. Ora Tri mi dirà se il telefono, quel famoso telefono l'hai ritirato. No, non l'ho ritirato ancora. Guarda Antonè, cosa si sente? Nulla. E tu dici che c'è un Fruscelli che faccio l'alternata. C'hai un... forse, vabbè, tu come lo riceve Natalino di segnale? Qua adesso è aumentato a 9.10. No, non ci va bene io, quasi 9.20, ma lo sento bene. Ho sollevato il volume perché io sai che c'ho la ventolina dell'alimentatore sotto. Guarda, adesso ho il microfono a metà, guarda un po'. Schiaccia senza parlare però. Sì. Scusate, ma mi hanno chiamato un cliente e quando chiamo un cliente bisogna correre. Sì, ma non ti preoccupare, l'abbiamo immaginato, anzi Natalino l'ha immaginato, non io. Ma voi mi sentite con questa, sì? A voi, anche i segnali sono aumentati. Sì, beh, questa è la Smart Tech. Mia Domenico, ci abbascio. Questa è la Smart Tech. Sì, arrivi alla grande, Cla, di russo. Avanti, buon poco. Ciao Claudio, ciao Marco. No, Antonio, adesso non c'è niente di sottofondo. Ti sento bene. Nell'alternato né niente, né fischi, né nulla. Avanti Marco, buonasera. Ciao anche a Claudio. Ui, ciao Antonè. Alla grande Antonè. Cla, con questa qui arrivi un po' più con la volazione, un po' più, come dire, un po' più rotonda. Molto bene anche l'altra, però questa mi sembra, non so, sembra che abbia guadagnato qualcosina. Segnale non stavo guardando anche perché ero voltato dall'altra parte. Però molto, ma molto bene, vai. Sì, questo è MC60 e col 140, però l'antenna è la J-Pol 7 ottavi, questa non è la Mantova 5 ottavi, questa è la J-Pol 7 ottavi, la Smart Tech. Va bene come antenna. Quanto è lunga? 8,50 m, 8,20 m, dai. Non è possibile, è un tiligone lungo e proprio. Sì, già lo sai, mai fatto la Smart Tech, non so se la conosci. C'ha 8,20 m di braccio lungo di antenna e poi a fianco con le barre in acciaio, gli isolatori, il balo mono a 1, c'ha l'altro tubo da 2,50 m. È una bella bestiolina, una bella bestiolina. No, arriva bene, ottimo. Allora, l'antenna a Natalino, Natalino, procedi. Sì, già sto procedendo, adesso me la compare giù nuova e mi compro la Game Master che dovrebbe essere più silenziosa e più leggera di questa. Perché questa che cos'è? Questa è una BA27L che si riempie d'acqua, mi salgono le stazionarie a manetta quando piove. La BA27L, quella, se non ricordo male, ha la bobinetta alla base dello stilo. Però che cosa fa? Cosa succede? Se non ricordo male, prendila con i miei, perché mi ricordo perché tanto tempo fa l'avevo avuto una BA27 e quel problema si era verificato. C'è una bobinetta che fa risuonare l'antenna come 5 ottavi nella nostra frequenza, perché la misura fisica non è ovviamente, ha bisogno di essere riadattata a questa frequenza. E quella bobinetta che è realizzata e protetta rimane però alla base. Se entra acqua dentro il tubo, l'acqua scende e nel tempo che cosa succede? Che magari la porosità dell'isolamento della bobina lascia passare un po' di umidità e ecco che ti salgono le stazionarie, perché ti fa corto fra i vari respiri e gli avvolgimenti che ci sono. C'è un piccolo traferro e poi c'è un avvolgimento in rama leggero, e quello è il problema che crea Natalì. E non c'è niente da fare, fra virgolette, perché uno la tappa prima di arrivare alla parte della bobina, cioè smonti lo stilo, tiri fuori, dentro gli metti un tappo di sughero, poi ci spruzzi un po' di quel prodotto, quello che si usa, lo schiumato che vendono da lì come moeta, cioè sfruzzi un po' e così non può scendere l'acqua, capito? Gli fai un forellino a 20 cm dalla fine dove c'è l'isolatore nero, così l'acqua quando entra dentro, anche se si riempie, non passa più giù e non va a tenere a mollo la bobina che invece altrimenti va in corto e ti crea quel problema lì. Sì, già lo so, ma poi disturbo pure ho questa antenna, quindi me la devo cambiare per forza, non ne voglio avere problemi. Ecco, riprendi tu. Sì, io riprendo e scusate, per me vado a cambiare, no, cambiare l'acqua, gli olivi, fammi una doccia, là, a dopo. Sì, ciao Luca, a dopo. Comunque in fondo c'è Marco in quell'antenna, la mia 27L alla base, il su della carica il foro c'è, solo che se si tappa immediatamente si riempie all'interno, c'è quella specie di gommino che in pratica rifà la guarnizione dove c'è la bobina, hai capito? Quindi in pratica bisogna smontare, metteci prima il come si chiama, la vasellina, e sopra ci metti in atto vocalizzato e poi ci metti il coso, il tappo. E sta tranquillo, non si riempie più d'acqua, una volta che allarghi il foro. E l'antenna è perfetta, si può solamente tagliare dalla base se nel caso dovesse arrivare qualche vento più di 120 e basta, perché l'antenna si pigia, io l'ho vista, l'ho avuta e si piega quasi orizzontale quell'antenna. Dopodiché la mattina e la notte la vedi così, la mattina la trovi in bella tettera. Mi ricordo infatti questa cosa, quel forellino però, gli insetti che ci sono lo tappano subito e dura nulla, dopo una stagione già tappato, se non lo metti e dopo, se ci sono poi le belle giornate, queste mosche o insetti gli creano quella specie di patina giallognola che l'avrai vista mille volte, lo sigilla e l'acqua arriva dentro e va in corto la bobina. Alle volte le aziende non capiscono, sembra quasi che facciano i prodotti e non li provano, oppure non vanno a sentire cosa succede, se li provano e fanno, sicuramente si sono lamentati una marea di gente, perché quel problema è un problema che capita a tutti, cioè se non ti capita oggi che l'ho appena piazzata, dopo 10, 15, 20 giorni, un mese, due mesi, il problema si verifica, e quando vai non subito prendi a tutti quanti i clienti o ai tuoi rivenditori e gli mandi un tappo di gomma, di gadrea, un tappo da mettere dentro e metterci un pezzettino, un pochino di silicone e non passa più l'acqua nell'ultimo tratto. Cose si perdono veramente in un bicchiere di whisky. Ma quell'apparecchio che piace a me, quello che finisce con, che c'ha il nome tuo e finisce con 5. No, quello non è QRP, no, Natali. No, è quello lì a 100 watt. No, l'818, l'FT 818, quello della Iaesu, piccolino, nuovo, che poi nuovo un tubo, perché io ci avevo un altro che è l'817, esteticamente è uguale, però dice che hanno cambiato tutto, il finale, la scheda, la main unit, dice che l'hanno praticamente rinnovato totalmente, hanno lasciato solo i case esterne blu. È bellino quello lì, No, è una bella radio, bella anche perché poi c'ha tutte le bande, fa le HF, V, i 50 MHz, le V, le U, le frequenze aeronautiche, le frequenze, le radio FM, cioè, e poi soprattutto funziona bene, funziona non bene, benissimo, alle volte rimango anche sorpreso come può una scatoletta così ricevere quasi bene come uno scatolone grande che pesa 15 kg in più, perché riceve, ti dico, un gran bel ricevitore, come sentito anche con, devo dire che ci ho un po' lavorato per riuscire a trovare, perché se senti la modulazione così come esce con il microfono suono normale, guai, ti tagli le vene. Cosa pretendi? Cioè, hai dovuto lavorarci perché non escono così in AM, già lo so. Ma io pensavo facesse solo le HF quello. tutto fa tutto, c'è anche una modifica per fare il caffè con le cialle, tutto fa da lì, fa tutto. Riprendo il crack e stacco e faccio un passaggio da tipo cassettone Mondese. Ma quindi è una radio professionale, cioè una radio... 17, quello che quello qui RPM cla. Tira ira mi rugo un pareggio. Mi dico a Marco come ha fatto la modifica per uscire così in AM. Vanno bene con le radio, vanno bene. Hanno voglia che vanno bene. Cappa di Rogero, via. Tanto so, stavo battagliando tutta la sera con tubi, tubicini fuori, per carità, bravo a subire, quando è bel tempo mi scateno, che adesso stanotte è una bella bustina. Questo microfono a combattimento, oh yeah! Già lo so Marco, quant'è che costa quello? 740, 60, una cosa del genere, nudo e crudo, poi ovviamente ci sono accessori, batterie, pacchi batterie, trichette e tracchette, secondo che cosa uno compra, ovviamente, ma la radio costa poco più di 700 euro. Qui metto il suo microfono, aspetta un attimo. Sì. Te la vendo io la radio, Natali, dai. Sì, sacco. Mira Franco, mi. Buonasera, buonasera, chi c'è questa ruota? Brutta gente, Fra. E allora niente, chi c'è Marco? Lo so io. Tutta la modulazione che c'è poi. Come mi fa questo microfono? Chi vuole buttato Marco? Mi ha detto bene, cacciatone. Ciao Marco, buonasera, ciao anche a Claudio, non so che altro ci sia. Non c'è stato niente, già modificato, io ho frattentato, ho provato, cosa fa. E già il microfono modificato, perché se senti quello tuo addirittura, se lo senti normale, senza essere modificato, ancora peggio. Ciao, non lo c'è così, proprio come ricetti, ricettista è trappa. Cosa vuoi pretendere? Però provo in banda laterale a vedere che ridiamo. Metti in banda laterale questo, passa in banda laterale. Proviamo, dai.